Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Carlo Luglio, regista del film Il ladro di Cardellini, da martedì 7 luglio online e in tour nelle arene estive. Carlo, ben trovato. Ben trovato a te Federico, grazie. Lo raccontiamo a chi ci ascolta brevemente? Sì, innanzitutto raccontiamo che l'anomalia di questa uscita tra piattaforme come Amazon Prime, sempre a metà luglio, arene estive, si condisce di questo nuovo ingrediente che sono i drive-in. Per ora incominciamo dal 9 luglio al drive-in di Pozzuoli, qua vicino a Napoli, per 5 serate. Poi andremo probabilmente a Brindisi e stiamo vedendo per Roma e Milano. Ed è divertente che in un periodo così tragico si ritorni ad un cinema che veniva fruito, no, negli anni 60 in quel mondo. Questo è un film popolare, innanzitutto ha un cast strepitoso, rimesta insieme alla tradizione più classica, gente che ha lavorato sia con Edoardo De Filippo che con i grandi maestri della sceneggiata, quindi intendo parlare, che ne so, di Pino Mauro, di Nando Paone, che è il protagonista assoluto e che ha lavorato appunto con Edoardo, ma anche con Salemme, ma qua è in un ruolo drammatico come in tanti altri film e spettacoli teatrali che ha realizzato, fino a parlare poi di Gigi De Luca, di Ernesto Maiè, il famoso imbalsamatore di Matteo Garrone, no? E poi abbiamo Julia Maierchuk, che viene da un percorso cinematografico da Brass fino alla TV, però poi è diventata un'attrice matura e brava, così come Antonella Attili, interpretano le due rumene camuffate ma credibilissime. E ancora abbiamo poi Lino Musella, che è davvero il regista e l'attore teatrale emergente del teatro italiano e del cinema, l'abbiamo visto in Favolacce come il professore inquietante, così come lo vedremo in Martone, ma vediamo poi ancora Giovanni Ludeno, grandissimo attore drammatico ma anche comico, che abbiamo visto nella serie 1992-94, nonché Vincenzo Nemolato, che è attore emergente, ha vinto anche il Lubu. E poi al femminile Viviana Canzano, che è il duo Ebanesis, che sta popolando su YouTube, sarebbero Viviana e Serena, hanno rifatto anche la canzone dei Queen in napoletano e sono davvero brave, voce e chitarra, a cappella e solo una chitarra, insomma, hanno spopolato con il loro tono ironico che riaggiorna i classici della canzone partenopea, ma anche quella italiana, insomma, un cast eccellente. Ma la storia poi è particolare, parte dal documentario Cardigli addolorati, che ormai è realizzato 15 anni or sono con Romano Montesanti, che girò tutti i festival e le piattaforme di allora, che erano in realtà le TV satellitari, e riscuoteva un grande successo sia perché era una cosa anomala per raccontare questi bracconieri di piccoli uccelli per uso domestico, i Cardellini, sia perché la loro malinconia poi si trasformava anche in qualcosa di divertente, di paradossale, quasi grottesco. Quindi da allora mi è venuto in mente che ci sono state tre stesure diverse della sceneggiatura, prima con Massimiliano Virgilio, poi con Anna Rita Altieri Pignalosa, erano prima una commedia, poi un dramma, alla fine è diventata un'ibridazione tra il neorealismo rosa alla Castellani, diciamo così, e il film invece drammatico, quindi una commedia agrodolce rifondata proprio da Diego Olivares, che è il regista oltre che sceneggiatore per il suo ultimo film Il Veleno, quello con Lisa Ranieri. Quindi in questa lunga gestazione ho trovato finalmente il tono giusto e questa trama appunto racconta di un Nando Paone licenziato da Guardia Forestale perché smerciava clandestinamente questi Cardellini per uso domestico e si ritrova senza né arte né parte a ricominciare una vita a più di 60 anni e quindi nel paese di ritorno, che è un paesino del sud qualsiasi, che in realtà è una Ponticelli antica, ritrova i problemi con la figlia obesa, con il suo genero che vive in casa e si ritrova da guardia a diventare trovare il ladro insieme a tutta questa combriccola di bracconieri che sono interpretati magnificamente appunto da questi attori che vi citavo prima, deve ricominciare una nuova vita. È un po' anche una metafora del ricominciare a metà del nostro cammino, forse in fase ancora più avanzata, che tutti si pongono nel momento in cui, diciamo, perdono la prima e anche la seconda chance e cercano una terza chance. Ora, quale chance più di questa che ricominciare e trasformare le proprie esistenze dopo una mazzata come quella che ci è arrivata addosso a livello mondiale? Quindi questa leggerezza, ma anche questa malinconia di questo film, forse è proprio il tracciato giusto per seguire adesso di nuovo storie disimpegnate, cioè nel senso che è dis-impegnato, cioè c'è un impegno più esistenziale, ma soprattutto c'è un disimpegno sociale che è dovuto al fatto che questa storia racconta l'individuo, ma che potrebbe essere chiunque di noi. Secondo me sono tre gli elementi che la rendono una creatura anomala: il tono da commedia, il surrealismo e una dimensione fuori dal tempo. Esatto, abbiamo cercato di togliere ogni riferimento, si vede solo una volta un smartphone e forse si sente nella radio dal barbiere, ma in alcune versioni nella Director's Cut soltanto, altra no, e la voce della radio che parla di Ancelotti, allenatore del Napoli, altrimenti è fuori dal tempo e quindi potrebbe essere ambientato tranquillamente negli anni 70 come scenografie, come arredi, come costumi, insomma è quello il mondo dei cardellari, di questi stralunati, in particolar modo Nando Paone, scapigliati, come possiamo definirli, scapocchioni, che invece di seguire le loro vite private si drogano con Mimì il chimico, che è un pseudofarmacista, nel senso bottega di una farmacista, e vanno avanti a cercare l'uccello pregiato che può cambiare la propria esistenza. Quindi sì, questa anomalia assolutamente risulta strana a tutti quelli che vedono questo film, ma poi pian piano forse chi più chi meno si fa coinvolgere da questo mondo stralunato, ecco. Per seguirlo ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, info@figliedelbronx.com oppure minervapictures.com. Perfetto. Quindi il sito di Minerva poi uscirà tra poco su Amazon, ripeto, poi vabbè, daremo le informazioni sul tour più precise. Sappiamo che l'8 settembre andremo a presentarlo al Cinema Massimo di Torino, il 30 agosto al City Light di Milano, e vediamo adesso e poi anche tante altre arrivi invece prima, durante l'estate, soprattutto in Campania e nel sud. Ora veramente ho perso cognizione, adesso a Napoli abbiamo una serie di proiezioni da qui a fine luglio, mentre la cosa interessante è questi drive-in, come dicevo, però la città che ancora per il momento è scoperta, ma siamo in attesa, è Roma, sia con il drive-in che con le arene, quindi non vediamo l'ora di sbarcare a Roma. La musica di Remo Anzovino e la fotografia di Alessandro Abate, credo che tu abbia potuto constatare, sono anche una marcia in più. Sì, sì. Il ladro di Cardellini, da martedì 7 luglio online, in tour nelle arene estive e nei drive-in. Un saluto e un ringraziamento al regista Carlo Luglio. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto, Carlo. Crepi il lupo e un ringraziamento davvero sentito a te. Con Alessandra Mortelliti, regista del film Famosa, al cinema dal 13 al 15 luglio 2020. Ben trovata. Ciao, ciao, ben trovato. Ci presenti questo lavoro? Questa mia opera prima, Famosa, ha un'origine un po' particolare perché nasce da un monologo teatrale che io ho scritto e interpretato, interpretavo proprio il ruolo di Rocco Fiorella per tantissimi anni, l'ho portato in giro per l'Italia fino a quando sono diventata mamma e poi ho deciso che era arrivato il momento di abbandonarlo, insomma, anche per un fatto anagrafico. Però questo personaggio, questo adolescente particolare, borderline, dall'identità sessuale non definita, con questo suo sogno di fuggire dal paese e raggiungere la capitale, in qualche maniera era rimasto un po' un'ossessione per me. E quindi ho deciso, ho sentito il bisogno di farne una trasposizione cinematografica. E così nasce l'idea di Famosa, che rispetto al monologo teatrale chiaramente ha assunto degli aspetti diversi, quasi più da teen movie. Ho cercato quindi nella trasposizione cinematografica di raccontare una sorta di fiaba moderna con il protagonista Rocco Fiorella che diventa una sorta di moderno Pinocchio e del suo viaggio verso questa meta ambitissima che è appunto Roma, la capitale, luogo dove lui pensa di poter esprimere se stesso, la propria identità, senza pregiudizi di sorta, quelli che invece lui vive dentro il suo paese. Però, diciamo, la sua purezza a questa sorta di moderno Pinocchio, così puro, ingenuo, dovrà scontrarsi con quella che poi è la cruda realtà di tutti i giorni. Come nasceva il monologo? Allora, il monologo nasceva in un periodo in cui, circa 10 anni fa, anche un pochino di più, c'è stata questa forte esplosione dei talent show, no? All'interno dei quali venivano spesso fatti vedere dei video dei provini andati male, no? Che suscitavano molta ilarità nei giudici e nel pubblico che li guardava. Vedevo che erano considerati un po' dei fenomeni da baraccone e effettivamente facevano molto ridere, però io poi mi chiedevo che cosa potesse esserci dietro quel percorso, cioè arrivare su un palco così ambito, evidentemente senza coscienza di quelli che sono i propri limiti, e arrivare a volersi esporre così tanto di fronte alla televisione, no? E da qui nasce il personaggio di Rocco Fiorella teatrale, questa strana creatura che vive praticamente isolato, non compreso dai suoi genitori, dalla sua famiglia, dai suoi amici, che ha come unico punto di sfogo, di finestra sul mondo, il televisore, e che pensa con purezza, con ingenuità, che raggiungere quel palco e poter esprimere il proprio lato artistico in quel modo sia l'unico modo per salvarsi. Ecco, questa è un po' l'origine del monologo teatrale. Che trasformazioni hai messo in atto per la trasposizione? Mentre nel monologo teatrale parliamo veramente di una creatura estremamente borderline, estrema, con l'utilizzo di un dialetto forte, di un uso del linguaggio sgrammaticato che faceva anche, insomma, molto ridere, con una violenza di contorno molto forte, il Rocco Fiorella cinematografico prende le sembianze di un adolescente più delicato, più normalizzato, tra virgolette, ma che dentro di sé ha un mondo che non riesce ad esprimere. Quindi il film, rispetto al monologo teatrale, prende dei toni molto più intimi. E mentre il monologo era una sorta di urlo di dolore, la trasposizione cinematografica, come dicevo prima, ha toni più intimi e c'è molto sottointeso. È un film che vive di chiaroscuri, di silenzi, di parole non dette, che si esprimono attraverso lo sguardo del protagonista e dei coprotagonisti. La connotazione dialettale? È rimasta perché il dialetto è qualcosa che mi affascina profondamente. È rimasta, abbiamo deciso di tenere questo dialetto ciociaro che era anche all'origine del monologo teatrale, chiaramente in una forma più realistica, quindi il ragazzino parlerà con questa inflessione dialettale che utilizzano tutti quanti i suoi coetanei e non con l'esasperazione dialettale che avevo dato nel monologo teatrale. Però il film è in dialetto, un dialetto comprensibile, anche molto musicale e poco utilizzato nel cinema, come il dialetto ciociaro, che però secondo me ha aiutato a restituire ancora meglio l'aspetto appunto della provincia, del paese. La scelta distributiva di questa 3 giorni? Noi abbiamo vissuto questo dramma del coronavirus che ha un pochino scombinato quelli che erano i nostri piani. Il film doveva uscire ad aprile, così non è più stato, quindi si è pensato intanto di fare appunto un'uscita di 3 giorni al cinema, perché comunque la sala è qualcosa di importante, di prestigioso, che io così come il distributore, così come il produttore volevamo per questo film, quindi un lancio al cinema per poi approdare successivamente nelle piattaforme, che secondo me in questo momento sono il mezzo migliore, insomma, affinché un film possa aver vita con questa storia del coronavirus e tutto il resto. La presenza di qualche volto teatrale si deve all'origine del lavoro? Più che altro alla mia origine, nel senso che io sono un'attrice di teatro da quando sono adolescente, mi sono diplomata da Silvio D'Amico, il mio percorso è principalmente e prettamente teatrale, oltre ad essere poi di mio anche una grande appassionata di cinema, e ho sempre amato le strane commistioni di generi anche nella scelta degli attori, quindi questo è un film che mixa perfettamente attori presi dalla strada, lo stesso protagonista non aveva mai fatto nulla prima di famosa, attori principalmente di cinema come Adamo Dionisi, che è il meraviglioso protagonista di Suburra, e Emanuela Mandracchia, regina del teatro italiano, che ha restituito, insomma, questo ruolo bellissimo, secondo me, della zia Maura. Ecco, sono queste commissioni, questi mix particolari che a me implicano tantissimo e che secondo me possono ben funzionare, insomma. Per seguire il tuo film, nel suo percorso ci sono degli spazi web? Il film è sponsorizzato da Europicture, dal distributore, e diciamo nella promozione si sta molto lavorando su tutto, diciamo, il fronte web, soprattutto perché si può considerare famosa un teen movie, no? Quindi sulle tematiche adolescenziali, quindi anche rivolto ai giovani, perciò i giovani che sono interessati, insomma, cliccando su Famosa il film, troveranno varie possibilità di approfondire l'argomento Famosa, l'argomento Rocco Fiorella. Famosa al cinema dal 13 al 15 luglio 2020, un saluto e un ringraziamento alla regista Alessandra Mortelliti. Un abbraccio, un in bocca grazie, al lupo grazie. E a presto. Grazie, a presto, ciao, ciao, ciao, ciao. Con Federica Alberighi, una delle autrici e registe del documentario Tutte a casa, donne, lavoro, relazioni ai tempi del Covid-19. Un social movie realizzato dal collettivo Tutte a casa durante il lockdown sarà presentato insieme alla campagna di crowdfunding alla Casa Internazionale delle Donne a Roma venerdì 10 luglio 2020. Federica, ben trovata. Ciao, ben trovati, grazie per questo spazio, cioè utilissimo come potete ben immaginare. Raccontaci un po' il progetto. Secondo me è meraviglioso, nel senso che intanto è nato durante la quarantena e quindi in un periodo di tempo particolare come quello, già il fatto che sia nato qualcosa, un'idea creativa che poi si è andata realizzando, per me è fonte di grande soddisfazione. Poi anche le modalità in cui è nato, perché siamo 16 tra registe, autrici, sceneggiatrici, esperte della comunicazione, uffici stampa, attrici, sparse in tutta Europa, che si sono incontrati virtualmente, noi non ci conoscevamo tra di noi e abbiamo dato il là e abbiamo creato effettivamente qualcosa, quindi anche la modalità in cui è nata questa situazione è molto particolare. Ci siamo costituite in associazione, abbiamo formato un collettivo, abbiamo creato un'idea, questa idea è appunto quella di creare un documentario, quindi un film che racconti dalla vera e nuda voce delle donne protagoniste, che insomma adesso sono arrivate a 150, ci hanno prodotto 4.000 video, cosa hanno fatto durante il lockdown. Quindi abbiamo dalla ragazza sola in casa totalmente, magari incinta, che non può vedere nessuno, alla grande famiglia allargata dove ce ne sono 10 persone sotto lo stesso tetto, dalla carcerata che ovviamente vive una situazione particolare, a chi ha continuato a lavorare durante il lockdown nei supermercati, oppure come tassista, oppure come medico, quindi a contatto con il Covid, veramente tutte le situazioni possibili e immaginabili, smart working, non smart working, cassa integrazione, chi ha perso il lavoro proprio prima del lockdown, quindi le relazioni e il lavoro, che poi sono il nostro sottotitolo, sono gli ingredienti fondamentali del racconto delle nostre protagoniste, che si sono messe a nudo e sono state bravissime, perché veramente senza filtri ci hanno raccontato i loro momenti di sconforto, che ovviamente, come possiamo immaginare, non sono stati pochi, ma anche momenti di grande felicità, perché insomma te lo ricorderai anche tu, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo riso, abbiamo gioito, anche momenti inaspettati che magari non succederanno più, perché non sono piccole cose che ci sono successe in un momento di grande deserto emotivo, anche il piccolo seme che germoglia è una cosa che ci rendeva felici. E poi adesso siamo in una nuova fase, che è quella, abbiamo raccolto tutto questo materiale, lo dobbiamo montare e stiamo chiedendo fondamentalmente aiuto a tutti quelli che possono essere interessati a veder creare, a veder nascere e fiorire questo progetto, un aiuto economico per creare appunto la parte di montaggio, la post-produzione, che nei film è la parte sempre un po' più delicata, ovviamente. E quindi stiamo creando degli eventi, sia ovviamente online, che è una cosa ormai a cui siamo abbastanza abituati, sia offline, cioè dal vivo, che è un po' particolare perché comunque sono delle misure di restrizione, di attenzione che bisogna tenere in questo momento, però il primo a Roma è proprio la Casa Internazionale delle Donne, non è un caso, penso, perché siamo donne, abbiamo parlato di donne, il nostro film parlerà tantissimo alle donne e quindi la Casa Internazionale delle Donne è probabilmente il luogo ideale dove presentare il crowdfunding del film. È l'appuntamento che lancerà la campagna di crowdfunding o è già partita? È già partita la campagna il 1° luglio e si chiuderà il 30 settembre. Ci sono stati degli eventi offline, quindi comunque è stata già presentata, però il primo vero evento dal vivo è alla Casa Internazionale delle Donne, vis-à-vis. Da questa mole di materiale che impressione ne hai ricevuto? Intanto che le donne sono proattive. Non siamo fatte per buttarci giù e basta, quindi malgrado comunque ci siano stati appunto dei momenti di grande sconforto, le nostre protagoniste si riprendevano, si ricostruivano, o perché c'erano i bambini, o perché c'era qualcosa da fare, o perché semplicemente non gli piaceva stare così demotivati, e quindi la resilienza, ecco, il fatto di prendere qualcosa di negativo e trasformarlo in qualcosa di positivo. La resilienza è una delle parole chiave in questo documentario ed è la parola chiave delle nostre protagoniste, che per quanto fossero e siano ancora ovviamente tutte differenti, avevano sicuramente questa particolarità che le accomunava tutte e che le accomuna ancora tutte, perché comunque anche se siamo in fase 2, avvicinandosi a fase 3, 4, 5, quelle che verranno, comunque per quanto sia finito il lockdown non è finito la nostra reazione a quello che è stato il lockdown, sia lavorativa che personale che di relazioni, quindi è ancora in trasformazione, però ovviamente noi siamo sempre in contatto con le nostre protagoniste e ancora le sentiamo che sono in un certo senso agguerrite in maniera positiva, e questo ci fa anche molto piacere. Il grosso gap di genere emerso da questa pandemia, da questa emergenza sanitaria, sono due secondo me, secondo quello che si è visto. Uno è il lavoro e l'altro è la retribuzione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Che dobbiamo dire di più? Già anche la presenza in televisione, accendevi la televisione e ti trovavi il virologo, il politico, l'esperto, il medico. Poche sono state le voci femminili che hanno raccontato anche da un punto di vista tecnico quello che stava accadendo. E la retribuzione è stato ed è ancora un problema, ma è un problema annoso che ancora non ci vede in una situazione di parità. Il lavoro in casa, ti potrei dire, quello che stiamo notando e che abbiamo notato, ma anche molto sulla nostra pelle proprio di donne, è che è vero che sia donne che uomini erano chiusi in casa, ma il lavoro di accudimento, oltre che quello pratico, oltre che quello in casa, era spesso dato alle donne. Quindi c'era questa problematica di essere un po' delle decali, con 7.000 braccia, contemporaneamente fare un po' tutto e rischiare anche un burnout dal punto di vista psicologico, che molti hanno avuto, molte donne hanno avuto. Quindi poi non ti nego anche, ma sicuramente vi ricorderete anche voi, che ci sono state anche delle campagne pubblicitarie che sono state poi ritirate, molto contestate, in cui la donna comunque era sempre quella reclusa nell'accudimento e l'uomo con le giacche e cravatta davanti al computer. Il vero è che siamo tutto questo e ci riusciamo, e che magari sarebbe anche bello avere una collaborazione paritaria nella gestione dei ruoli. Quindi assolutamente sì, si sentiva e si sente, credo, un bisogno di raccontare questi aspetti, purtroppo, direi. Federica, nel salutarci ci lasci tutti i riferimenti internet per le informazioni? Assolutamente, allora, intanto ovviamente c'è il nostro sito internet, tuttacasa.com, i nostri social collegati, che ovviamente siamo presenti sia su Facebook che su Instagram, e poi ovviamente la nostra campagna di crowdfunding sulla piattaforma, oddio mio, Produzione al Basso, eccoci, Produzione al Basso, e potete andare a cercare il nome del film, Tutti a Casa, si aprirà la pagina. Potete sostenerci, ovviamente la donazione è assolutamente libera, però ci sono dei reward che noi diamo a seconda della decisione appunto di donazione, ma è assolutamente libera, quindi sentitevi liberi intanto di passare parola, perché soltanto conoscendo il progetto anche la nostra mission e la mission del progetto può viaggiare, e poi ovviamente al buon cuore di tutti. Tutte a casa, donne, lavoro, relazioni ai tempi del Covid-19, il social movie realizzato dal collettivo Tutte a casa, la presentazione del documentario della campagna di crowdfunding, l'appuntamento è a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne, venerdì 10 luglio 2020, un saluto e un ringraziamento ad una delle autrici e registe, Federica Alderini. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Radio viva! Non si sa mai come si dice adesso. Grazie! Con Elisabetta Antonioni di Cinemovel per parlare della Festa Mobile che presenta online la 15ª edizione del Festival di Libero Cinema e Libera Terra che prende avvio il 14 luglio. Ben trovata Elisabetta. Grazie Federico, ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sì, partiamo con la Festa Mobile, la presentazione online di Libero Cinema e Libera Terra il 10 luglio alle ore 12 in diretta sul sito di Cinemovel e su Libera. Allora, raccontiamo un po' brevemente la storia, visto che ce ne occupiamo ogni anno, di Libero Cinema e Libera Terra. 15ª edizione di Libero Cinema e Libera Terra. Nasce nel 2006 la carovana di cinema itineranti sui beni confiscati alle mafie e restituiti alla legalità. Quest'anno, come tutti d'altra parte, abbiamo deciso di affrontare questo momento di difficoltà dovuto alla pandemia con una nuova formula. Abbiamo deciso che il Festival di Libero Cinema e Libera Terra si sarebbe fatto comunque. Siccome la pandemia ha fermato le ruote del nostro cinefurgone, abbiamo deciso di montare gli schermi, anziché nelle piazze italiane e sui beni confiscati, monteremo gli schermi nella piazza virtuale di My Movies. Il 14, il 15 e il 16 luglio sono le prime tre date del Festival di Libero Cinema. Dal 10 luglio è possibile prenotare il proprio posto non solo per vedere il film ma anche per l'incontro, perché questa edizione di Libero Cinema e Libera Terra, che è dedicata ai diritti e al nuovo mondo, partirà con un format che abbiamo chiamato il format internazionale delle tappe di luglio, perché prima della proiezione del film ci sarà Diritti al Nuovo Mondo, Libero Cinema Incontra, condotto da Enrico Fontana. La prima serata parleremo di scuole, avremo come ospite Luigi Ciotti, la seconda serata parleremo di Latino America e avremo ospiti in diretta dal Brasile e dal Messico, mentre il 16 la serata sarà dedicata al continente africano. Qui racconteremo le esperienze che abbiamo incontrato, avremo in collegamento la comunità belga, la Costa d'Avorio, avremo in collegamento dal Senegal i ragazzi che fanno il Festival del Cinema della Comunità, anche questa è una start-up di Cinemove. Quindi parleremo di quello che è nella serata africana, di quelli che sono i temi legati alla migrazione senza confine, al diritto di migrare. La nostra strada, quello che proiettiamo la prima sera, è un'anteprima, appena vinto la 15ª edizione del Biograph Film Festival, la nostra strada di Pierfrancesco Lidoni, e anche qui avremo un messaggio del regista prima della proiezione del film. Per la serata dedicata all'Altre Americhe, il film che faremo Il Sale della Terra, il bellissimo documentario di Wenders e del figlio di Salgado. E ancora per la serata africana, il film che proponiamo invece è di una giovane regista tunisina, Leila Bouazid, appena apro gli occhi, Canto per la libertà. Libertà è una parola che ritorna. Nel complesso quanti saranno le opere proposte? Tre film nelle prime tre serate di luglio, poi il festival si ferma nel mese di agosto e riprende a settembre per un'altra piccola carovana che mette insieme il Libero Cinema Incontra, quindi il format, il talk direttamente dai territori, torneremo sui beni confiscati, incontreremo i ragazzi delle cooperative, da qui faremo partire il film per la settimana che va dal 14 al 20 settembre. Nei collegamenti di settembre conosceremo appunto la Meglio Gioventù, i ragazzi che tutti i giorni lavorano sui beni confiscati per costruire un futuro migliore, per costruire insieme un nuovo umanesimo che consideriamo fondato sull'affermazione dei diritti universali per tutti. Quindi avremo il collegamento da Sessaurunca con la cooperativa Di Là dei Sogni, da Cerignola con la cooperativa Pietra di Scarto, da Galbiate, il centro diurno per anziani gestito dalla cooperativa Arcobaleno, saremo in Toscana nella tenuta di Suvignano e poi ancora in Calabria, il collegamento da Polistena con la Valle del Marlo, a Catania ancora da Piazza Beppe Montana. I film che abbiamo scelto per questa seconda parte del festival, partiamo da Ancora un giorno, parlavamo prima del continente africano, Ancora un giorno che parte dal libro del grande reporter di Saskapusis che ci parla dell'Angola, il 16 settembre ritorniamo con un film che va sempre rivisto, che è Fuoco a mare di Rosi, e poi ancora Parola d'onore di una regista italiana, un film nuovissimo del 2020 che ci racconta l'esperienza di Liberi di Scegliere col Tribunale dei Minori e la Rete di Libera e il Tribunale di Reggio Calabria. E per finire, da Piazza Beppe Montana faremo un film dedicato alla libertà di informazione, Prima che la notte, di Daniele Vicari, perché è proprio qui che vogliamo parlare di quello che è il diritto all'informazione in una società libera. Ho considerato che si tratta di una 15ª edizione e che almeno per questa prima fase non sarà fisica ma virtuale la carovana, facciamo anche un bilancio di queste precedenti edizioni, come arriviamo a questa 15ª? Arriviamo con uno spirito ancora più forte delle passate edizioni. Andare sui territori e proiettare in presenza significa mettersi in gioco in prima persona e chiedere alle persone di condividere un momento di coscienza civile, di contrasto alle mafie e alla corruzione. In questo caso chiediamo alle persone di venire con noi nella piazza virtuale e di seguirci in questo percorso che parte dalla piazza virtuale di Memomovies ma torna sui territori. Il bilancio dell'anno scorso, un bilancio molto positivo della edizione dell'anno scorso, che ci dà il giusto carburante per ripartire anche quest'anno, perché nei nostri incontri avremo non solo i ragazzi dei campi di Estate Liberi che ci seguiranno virtualmente, ma anche i ragazzi che incontriamo ogni anno nelle scuole con schermi in classe. Lo dicevo prima, scommettiamo sulla Meglio Gioventù, in grado di costruire una società più equa e più giusta per tutti quanti. La festa mobile il 10 luglio per presentare online la 15ª edizione del Festival di Libero Cinema in Libera Terra, che sarà sul My Movies online dal 14 luglio 2020. Un saluto e un ringraziamento ad Elisabetta Antognoni di Cinemovel. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, è sempre un piacere. Alla prossima, Federico. Con Matteo Leurini, il promotore di Sunset Drive-In, a Roma, Cinecittà Studios, da venerdì 3 luglio 2020. Matteo, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Ci presenti questo progetto? Sì, allora, venerdì apriremo questo drive-in all'interno, insomma, di Cinecittà Studios, un po' la casa mondiale del cinema. Avremo una programmazione che andrà dal venerdì alla domenica con due proiezioni a sera. Film di ogni genere, dal retro a film un po' più attuali, insomma, una vasta selezione. Siamo pronti a partire, insomma, vi aspettiamo. Com'era partito il progetto? In quarantena ho l'idea insieme ad altri amici e piano piano l'abbiamo portata avanti e finalmente abbiamo capito che insomma era fattibile. Ci siamo resi conto che era una buona idea, quindi abbiamo poi iniziato a lavorarci su molto più duramente. Si è risultato molto più complicato del previsto, però ecco, ci siamo quasi. Sulla scelta dei film, cosa vi siete concentrati? Abbiamo voluto riproporre dei film che

direzione artistica di Giorgio Viaro, che è direttore di Best Artista Best Movie, che il festival, diciamo, è un intenditore e un curatore anche di importanti manifestazioni nazionali e che ci ha dato una grossa mano per portare a Genova, nella cornice di Palazzo Ducale, dove già da alcuni anni ospitiamo una rassegna di film di qualità, e a impreziosirla appunto con la presenza di alcuni protagonisti del cinema. 9 giorni come saranno strutturati? In linea di massima le serate prevedono appunto una introduzione ai film dei vari protagonisti e ospiti della nostra città, da seguire la proiezione del film e dal termine il consueto Q&A o dibattito col pubblico, che credo sia poi il valore aggiunto di questa tipologia di incontri, la possibilità di scambiare opinioni sul film a stretto contatto con chi il film l'ha vissuto in prima persona. La scelta dei titoli? Ovviamente abbiamo privilegiato alcune cose che non erano ancora state viste, parliamo in particolare del Grande Passo di Antonio Padovan, che a parte una proiezione al Festival di Torino dell'anno scorso non è ancora uscito in sala, e quindi sentivamo la necessità di farlo vedere al più presto al grande pubblico, e quindi quella è stata una scelta proprio di un'anteprima, così come un'anteprima assoluta anche lì esclusivamente dopo la proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia, è quella del film di Haifa al-Mansour, regista della Bicicletta Verde, del suo ultimo film La Candidata Ideale, che appunto era stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia con un buon successo di pubblico, e sarà un'anteprima nazionale a Genova in attesa che poi esca nelle sale i primi di settembre. Queste sono, diciamo, le due chicche dal punto di vista delle anteprime. Poi abbiamo inserito per diversi motivi la versione in bianco e nero di Parasite, che a Genova non era stata ancora presentata, è appena apparsa in qualche altra città italiana, ma era le primissime battute, che è la versione che Bong Joon-ho voleva fin dall'inizio, che poi ovviamente i produttori gli avevano cassato per la versione colori decisamente con più appeal commerciale, però aveva preteso, soprattutto se avesse avuto un certo riscontro, la versione colorata, che i produttori mettessero a disposizione del pubblico anche la versione bianca e nera, e quella sarà presentata martedì 7 luglio, in una serata nella quale tra l'altro avremo l'occasione di far vedere anche al pubblico il Davide Donatello, che è stato vinto appunto da Parasite come miglior film straniero, e in qualche modo avremo anche l'occasione di festeggiare la Academy Tudi, che è genovese come casa di distribuzione, quindi ci concediamo un minutino di autocelebrazione portando in sala il Davide Donatello. La manifestazione inizia sabato con la presenza di Ivano De Matteo, che introdurrà e discuterà col pubblico del suo ultimo film Villetta con ospiti, e avremo ancora un collegamento in diretta da Roma con Valerio Mastandrea per parlare di Figli. E il gran finale poi sarà il prossimo fine settimana con Elio Germano, che sarà doppiamente protagonista perché, oltre a presentare la domenica di chiusura il 12 Favolacce, dove interpreta un ruolo chiave del film, incontrerà anche il pubblico per parlare di un'altra cosa che presenteremo con lui, che è Segnale d'allarme, una rappresentazione teatrale con lui protagonista presentata al pubblico in realtà virtuale. Uno spettacolo molto interessante che appunto presenta quest'opera teatrale in questa forma ovviamente innovativa, e verrà presentata non solo a Palazzo Ducale una sera, ma anche al Cinema Sivori per 3 giornate, venerdì, sabato e domenica. Quindi anche questa è una cosa molto interessante, sarà accompagnata anche da Omar Rashid, che è il regista. L'ultima chicca, notizia dell'ultimo minuto che però ci ha fatto molto piacere, sarà anche Valentina Lodovini, sabato 11 luglio, e presenterà un suo film, stiamo ancora valutando quale, però la presenza sua naturalmente è una chicca in più che arricchisce la nostra manifestazione. Per tutte le informazioni ci dai riferimenti internet? Sì, certo, circuitocinemagenova.com, troverete Genova Reloaded con tutti i programmi giorno per giorno e la possibilità anche di acquistare i biglietti online. Genova Reloaded Festival, Palazzo Ducale, dal 4 al 12 luglio 2020, un saluto e un ringraziamento all'organizzatore Alessandro Giacobbe. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima!